and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Oh, questa cosa mi sembra di averla già sentita, già detta e già sentita. È la nostra formula di apertura, caro K. L'avremmo detta circa 230 volte. Infatti, e poi è estate, è estate. Piena estate. Siamo a fine luglio e l'Italia è in replica. In che senso? Si stanno dando le repliche. Ah, in TV. Anche in radio. Sì, però questa non è una replica, di Chiedo Asilo. Siamo qua in diretta, in diretta, un caldo bestiale. Però, lasciamo da parte un attimo Milano, Radio TV, no? Monte Rosa. Sì, ma siamo in diretta. Certo. Però le repliche sono dappertutto. Ma lasciamo da parte Radio e TV e pensiamo alle repliche, proprio le nostre vite in quanto repliche. Oh, ecco, vedi, che bello, quando Drago così ti diletti con i pensieri profondi, espressi con frasi ad effetto. Vabbè, fa tanto le luci della centrale le elettrica. Le luci della centrale elettrica. È un po' una cosa così. Però pensaci, d'estate è tutto fermo. Vabbè, ma per forza, Drago, ma che banalità. Ci sono le vacanze, non è mica strano, no? Beh, si ferma tu tutto. Se vuoi un appuntamento di lavoro adesso, non trovi c'è nessuno. La branca, capito? Si capisce che è estate. Sì, lo smobilitazione. Però ormai non puoi più fissare appuntamenti al telefono, niente. Non si può più fare. Quello a parte che non si può fare, perché non rispondono neanche al telefono. No, se però anche d'inverno non rispondono. È vero, però, d'estate se rispondono, di solito è un sostituto, un simulacro, un manichino, certo, uno che è lì così. Che rimanda tutto a settembre. E sta per cominciare agosto, il mese in cui tutto quello che vedi non sta succedendo in quel momento. Il mese in cui quello che vedi è una registrazione. Il mese in cui puoi chiuderti in casa con le tapparelle abbassate, assumere una dose letale di sonnifero e salutare il mondo senza farti notare da nessuno. È morto. Ma Drago, ma ti sembrano cose da dire alla radio d'estate, il pomeriggio, quando tutti i commercialisti che ci ascoltano sono lì che dicono 10 minuti di svago? Pensano un po' alla morte. Borsa indisfatta. Pensare alla morte è così. Allora. E poi d'estate, io sono uno che d'estate gli vengono questi pensieri. Allora, bambino Alberto, è già un po' di tempo che notiamo che sei un po' maturato. Ad esempio, hai smesso di parlare del tuo amico immaginario Gildo e quindi questo ci fa molto contento. Allora, se sei maturato, ci può stare, perché dopo una stagione dall'asilo, alla fine stagione sei più maturo, no? Si vedrà se ti promuovono, se l'anno prossimo vai... Quello è un problema che non vi riguarda. Riguarda me. Vedremo l'anno prossimo. Abbastanza Sono abbastanza tranquillo. E poi Gildo, allora la roba dell'immaginario di Gildo adesso basta. Gildo non c'è, è un po' che non ne parlo e non parlo a lui, perché via! È andato a passare un periodo di vacanza col padre. Ma come col padre? Come? Il padre era... allora è venuto fuori. Era anche vietato nominarlo fino alla settimana scorsa. Lo dite a me. Sembrava un argomento tabù. Sembrava che il padre non ci fosse. E invece c'è sto padre. Che ha un suo diritto. Quindi una volta all'anno in vacanza Gildo va dal padre. Vabbè, meno male. E dove va? Il padre, il padre vive in Sardegna. Ah, che bello, no? Nell'interno della Sardegna. Ah, non al mare. No, all'interno. Proprio tipo il centro della Sardegna. E lì ha un agriturismo. Sì. Ha ben avviato, eh? Sì. Ormai è un po' di tempo che è lì. Quindi Gildo è andato. Sembra che vada tutto bene. Sì. All'inizio. Allora. Come? È una cosa un po' strana. Perché? Allora, Gildo è partito e sono arrivate le prime cartoline, no? Ma come? Gildo mi ha mandato una cartolina. Altra prova che era immaginario. Ma non è che ti telefono al touchpad. Ma no, in mezzo alla Sardegna, lì l'agriturismo è tutto natura. Ma vabbè, ma... Quindi non ci sono mezzi di comunicazione. Ah, così. Quindi cartoline che ci mettono 4 settimane a arrivare. Vabbè. Quando è partito Gildo, tipo... vabbè. Insomma, adesso... Comunque mi è arrivata questa cartolina di Gildo, la prima, con i suoi scritto, no? Dei segni, no? Dei segni. Dei segni come parlo, tipo. Però io ormai lo capisco. E quindi sì, tutto bene, ciao, i nostri giochi mi mancano. Dico, a me no, comunque. Vabbè. Seconda cartolina. Ancora, segni, tutto bene, papà. Gioco con le pecore. C'è le pecore lì, no? Sì, vabbè. Per forza, ma che, un agriturismo. Ma che fa la ricotta. Ma che giochi si fanno con le pecore? Non so, dice che cioè, il padre gioca con le pecore, no? Ah. Cioè, il padre è il padrone delle pecore. Sì, non gioca. È il padre padrone delle pecore. Sì. Ma pastore, non gioca. Sì, pastore. Ma poi... non ha l'agriturismo. Non lo so. No, ma c'ho 4-5 pecore, no? Per fare il latte lì. Giusto, la ricotta. C'ha un aiutante. E tutti si divertono con le pecore. Ma come si chiama il padre di Gino? È il signor Filfio. Ma come? È signor Filfio. Ma che nome è Filfio? La madre di Gildo si chiama o non si chiama signora Milfia? Sì. Il padre è il signor Filfio, no? E di conseguenza è Filfio. Come Bibi Bibo. Allora. Filfio. Filfio. Sì, come Silvio, tipo. Come suono? Non è che il suo nome è Filfio, Silvio, Tibio, Livio. Filfio. Filfio in Sardegna, va bene, ok. Allora. Le pecore e la ricotta. Le pecore e la ricotta e le cartoline di Gildo. Alla terza settimana, la terza cartolina, è arrivata una busta imbottita. Questo non a me però, alla signora Milfia. Sì. Con dentro una lettera anonima. La lettera anonima fatta con i cardini, con tutte le lettere dei quotidiani, di tutti i quotidiani d'Italia. Tutti i giornali per non lasciare tracce, no? Lettera anonima, con scritto signora Milfia. Milfia, abbiamo suo figlio. Come Milfia? Abbiamo qua suo figlio. E sarebbe il caso che mettiamo a posto quella vecchia pendenza, sennò suo figlio non torna più. Ma no, un po' criptica. È un messaggio, è un metamessaggio. Tutto assolutamente anonimo. Sì. Debitamente firmato. Firma autografa del signor Fizio. Cioè, per dire, c'è qualcosa da fare, sono stato io. Ma la lettera... Capito che testa? Ma la lettera anonima firmata. Lettera anonima firmata. E qui sta la marcia in più. Capito. E Gildo? E Gildo? No, Gildo no. Nella busta, allegato. Veda allegato. Sì. Dice, l'allegato sarebbe, lo so. E l'allegato è una bustina di plastica con dentro una cosa che poi si è scoperta essere l'orecchio di Gildo. L'orecchio, non che l'orecchio, un orecchio di Gildo. Ma è andato in vacanza da suo padre. E in Sardegna, c'è sto agriturismo, lì si usa così. Come? Che gli mandano dei bambini, no? Una specie di colonia per agriturismo per bambini, mandano dei bambini, ogni settimana arriva uno. Arriva tutti bendati, legati, e lì fa parte del gioco, no? Sì. La sorpresa, perché i bambini devono essere sorpresi. Quindi fa tutto il viaggio nel bagagliaio, arrivano lì, bendati, li sbendano e poi gli tagliano l'orecchio. Allora adesso la prossima volta vieni con l'orecchio di Gildo, lo metti in una borsa freezer con le cose blu. I siberini. I siberini, così sta al fresco e ce lo fai. Vabbè, allora. Allora, se io vi porto l'orecchio di Gildo, voi la smettete di dire che io me lo immagino. Allora. Problemi da parte mia per di portare qua l'orecchio di Gildo non ce n'è, le chiacchiere stanno a zero. Prendo, vado, lo porto. Non fosse altro che l'orecchio non c'è più. Perché c'è stato un blackout? Vabbè, dai. L'altra sera? Sì. Nel condominio della signora Milfia? Qui è andata via la corrente, si è spento anche il freezer. E quindi? E tutto si è liquefatto. Qui l'orecchio di Gildo si è praticamente biodegradato. Ma come? Beh, biodegradabile. Gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could do. Ma sei sicuri che non sia una replica? Gonna take some time to do the things we never had. Toto si rivolta nelle tombe.